oggi iniziamo ricordando che è il Transgender Day of Remembrance, che è appunto una giornata mondiale di ricordo per le vittime della violenza transfobica, che ormai si tiene da 17 anni. La settimana scorsa, sabato, ci sono stati vari momenti di ricordo e di lotta sia a Napoli che in altre città. Oggi anche a Bologna c'era un presidio di una passeggiata organizzato dalla comunità LGBTQI, dal MIT e da Non Una di Meno, appunto per ricordare le vittime di violenza transfobica. Anche a Roma, in seguito all'uccisione di una ragazza trans la scorsa settimana, oggi ci sarà una fiaccolata. E tra le varie iniziative che ci sono state, ricordiamo una mostra che si è tenuta sabato a Torino e che è stata vittima, una parola bruttissima da usare in questo caso, che contro cui si sono scagliati dei fascisti, lo possiamo dire. E durante appunto questa giornata e questa mostra organizzata in via Leoncavallo, è stata vandalizzata da delle scritte no gender. Abbiamo al telefono con noi un compagno di Torino. Ciao, ci senti? Ciao. Ciao, a cui chiediamo di raccontarci un po' innanzitutto il significato di questa giornata e poi un po' più nello specifico invece quello che è successo a Torino e anche quello che avete organizzato a Torino. Certo. Beh, allora, il 20 novembre è, diciamo, questa giornata internazionale in ricordo delle vittime di transfobia, persone trans uccise in tutto il mondo. Dal 98 praticamente è stata istituita questa giornata perché una donna trans, un'attivista di colore, è stata uccisa in America, appunto, e da allora poi diciamo le sue compagne di lotta hanno pensato di istituire questa giornata. E per molti anni, insomma, si è svolta con un candlelight. Ricordo, noi all'inizio la facevamo all'interno delle associazioni, poi piano piano siamo uscite per strada, e da 4 anni a Torino, per esempio, questa celebrazione si svolge attraverso una marcia, la Transfreedom March, che noi abbiamo avuto appunto a Torino sabato e il pomeriggio, mentre al mattino eravamo ad un convegno, avevamo organizzato questo convegno che si chiamava Corpi Liberi, Intersezioni tra le violenze di genere, dove affrontavamo in parallelo, diciamo così, le radici comuni della violenza contro le donne e della violenza contro le persone trans. E nella sala adiacente, diciamo, questo convegno c'era appunto esposta la mostra Generi di prima necessità, e un visitatore, insomma, ci ha allertati perché sulla prima foto della mostra c'era scritto no gender nelle scuole. Proprio con una penna ci hanno vandalizzato una di queste foto. E che dire, insomma, questa mostra non è nuova a questi episodi, perché poi sento dai vostri microfoni, ho raccontato ormai credo 8 anni fa il fatto, l'evento, insomma, che era successo quando la mostra era per le vie di Torino, una di queste foto che ritraeva una Madonna che era una persona trans, era stata appunto anche questa vandalizzata da svastiche e croci celtiche. Insomma, 8 anni fa ancora non si parlava della teoria gender, ma i fascisti c'erano già, insomma. E è interessante, no, vedere come poi noi come Moris abbiamo fatto anche un comunicato, insomma, che si intitolava "Anche se di travestite, insomma, vi riconosciamo lo stesso", perché poi alla fine cambiano le modalità, cambiano le parole d'ordine, eccetera, però questi sempre gli stessi sono, insomma. E adesso ce l'hanno con questa fantomatica teoria del gender. All'epoca, insomma, un po' più grezzamente avevano usato delle croci celtiche. Infatti è molto interessante anche quello che dicevi tu all'inizio, insomma, questa gente che adesso si scaglia contro, appunto, quelle possiamo chiamare l'educazione alle differenze nelle scuole e contro i vari, insomma, progetti che provano un pochino ad aprire un varco verso anche narrazioni differenti, che poi sono le stesse che a Roma, ad esempio, in questi giorni hanno tappezzato la città di manifesti contro l'aborto. E mi ricollego perché, insomma, è molto interessante quello che dicevi tu all'inizio, appunto, della lettura come di questa, diciamo, possiamo chiamarla violenza patriarcale, violenza del genere, che colpisce sia le persone trans e le soggettività non normate, sia poi le donne anche nella propria possibilità di autodeterminazione per quello che riguarda l'aborto, la libertà sessuale, cose che, insomma, sembrano un po' vecchie ma che sono continuamente sotto attacco. Sì, sì, guarda, questi hanno quelle parole d'ordine, insomma, hanno, vabbè, parte famiglia, queste robe qua. E ci hanno all'aborto, la donna in casa a fare le pulizie, e adesso si è unita anche questa roba della teoria del genere, che gli ha dato un po' una facciata, diciamo, di novità, non so come dire, di modernità, però tutto sta nello stesso calderone. E credo che, insomma, non solo io, sono molte persone, appunto, come dire, la strategia, no? che dobbiamo avere di convogliare, diciamo così, le nostre lotte, di creare questa intersezione tra le diverse soggettività, voglio dire, non si può prescindere da questo, perché, come dire, il nemico è quello, è comune, e solo, insomma, cercando di trovare i punti di contatto di queste lotte, secondo me riusciamo ad arginare la cosa. Poi questo non vuol dire che ogni soggettività non abbia le sue peculiarità, che ogni soggettività non debba fare i propri percorsi, però in questo momento storico preciso probabilmente intersecare questi discorsi c'è utile, insomma, c'è anche strategicamente indispensabile, credo. Assolutamente d'accordo, e infatti non ti voglio chiedere in occasione di questa giornata le statistiche sulle persone trans uccise, ma ti voglio invece chiedere come è andata il momento di lotta di sabato scorso, com'è stata la partecipazione e se, insomma, si riesce a fare questa intersezionalità delle lotte. Sì, io, diciamo, gli eventi, la manifestazione sono andate bene, la città, devo dire, Torino risponde sempre molto bene a queste cose. E c'è stata anche la partecipazione, insomma, le persone erano, non so come dire, venivano lì proprio per portare la loro testimonianza, insomma, ed è stato bello. Forse noi siamo un po' avvantaggiati da questo punto di vista, perché abbiamo una storia anche di movimenti, di appunto di intersezioni, di lotte che ci agevola un po'. Non è così dappertutto, in Italia specialmente, dove i movimenti sono molto divisi, dove ci sono sempre questioni di fondo che rendono impossibile, no, scendere in piazza con una parola d'ordine che sia quella per tutti e tutte. Però insomma, come dire, anche qui i discorsi vanno portati avanti, perché scendere in piazza una volta l'anno è un discorso, lavorare assieme per un obiettivo è un'altra cosa, e i percorsi comunque sono difficili da sostenere, da portare avanti, da far fruttare, quindi diciamo le basi ci sono, la volontà anche, speriamo che vada avanti a questo percorso. È chiarissimo questo discorso, e allora io ne approfitto per salutarti, se non vuoi aggiungere altro, e per ricordare che il 25 novembre ci sarà uno degli appuntamenti, appunto, speriamo uno di tanti, qui a Roma, contro la violenza maschile sulle donne, ma che anche contro la violenza di genere, del genere, e insomma al suo interno accoglierà anche una grossa parte di soggettività transfemminista che siamo contente, con cui siamo contenti di marciare fianco a fianco. Certo. E allora io ti saluto e grazie mille per il tuo intervento. Grazie a voi. E buone notte. Grazie anche a voi. Ciao. Ciao.